Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Esiste, nelle estreme più lucenti terre del sud, un ministero nascosto per la difesa della natura dalla ragione. Un genio materno di illimitata potenza, alla cui cura gelosa e perpetua è affidato il sonno in cui dormono quelle popolazioni. Se solo un attimo quella difesa si allentasse, se le voci dolci e fredde della ragione umana potessero penetrare quella natura, essa ne rimarrebbe fulminata. A questa incompatibilità di due forze ugualmente grandi e non affatto conciliabili, a questa spaventosa quanto segreta difesa di un territorio, la vaga natura con i suoi canti, i suoi dolori, la sua sorda innocenza, e non a un accanirsi della storia, sono dovute le condizioni di questa terra e la fine miseranda che vi fa la ragione dell'uomo. Qui il pensiero non può essere che servo della natura, suo contemplatore in qualsiasi libro o anche nell'arte. Se appena accenna un qualche sviluppo critico o manifesta qualche tendenza a correggere la celeste conformazione di queste terre, a vedere nel mare soltanto acqua, nei vulcani altri composti chimici, nell'uomo delle viscere, è ucciso. Buona parte di questa natura, di questo genio materno e conservatore, occupa la stessa specie dell'uomo e la tiene oppressa nel sonno. E giorno e notte veglia questo suo sonno, attenta che esso non si affini. È la natura che regola la vita e organizza i dolori di queste regioni. Il disastro economico non ha altra causa. Il moltiplicarsi dei re, dei viceré, la muraglia interminabile dei preti, l'infittirsi delle chiese come dei parchi di divertimento e poi degli squallidi ospedali, delle inerti prigioni, non ha un diverso motivo. È qui, dove si è rifugiata l'antica natura, che la ragione dell'uomo e quanto in essa vi è di pericoloso per il regno di lei deve morire. Quel compagnone era, come molti di noi, nato nei vicoli di Napoli, dove la natura è in furia, e tutta la ragione dell'uomo è nel sesso, e tutta la coscienza nella fame. Ancora giovanetto, e bello e vivace come un antico dio, a tutto questo si era ribellato. A modo di una perfetta incubatrice, poi, il fascismo aveva scaldato e favorito con la sua altre ribellioni, e nella umiliazione della guerra si era poi scoperto marxista, cioè uomo nuovo, e per un attimo, insieme agli altri, aveva pianto le lacrime dolcissime di chi si riconosce salvo. Alla caduta della rivista Sud, il suo dolore fu sincero e la sua commozione veramente bella, come davanti alla morte di persona profondamente cara, ma come avviene in certi funerali che mentre il carro procede per le strade i più devoti amici del defunto si distraggono e quello si aggiusta il fazzoletto nel taschino, questo guarda un negozio e un altro chiacchiera, così certa distrazione e fatuità apparvero ben presto anche nei modi e nell'intelligente viso del compagnone, il quale continuò ad accogliere i superstiti membri del gruppo Sud e a compiangere l'immatura fine del giornale. Ma ora non poteva nascondere un'eccitazione, una gioia che erano, sembrerà strano, in diretto rapporto con quella disfatta. In parole più semplici, l'antica natura che per qualche tempo aveva sopportato nel giovane un'attività rivoluzionaria e sofferto gli strazi di una madre cui il figlio si rivolti, riprendeva adesso il dominio di lui. Nasceva nel compagnone la necessità di rivedere, per quanto possibile, il suo e nostro passato, esaminando tutto quanto gli apparisse contaminato da quella oscura e nuova smania di essere che egli giudicava follia. Ritrovando alla base di tutti i nostri rapporti quel gufo di largo Ferrandina, gli parve che il suo scopo fosse raggiunto e riconobbe in noi e in se stesso la vecchia generazione. Addentrandosi nella sua analisi, scoprì che eravamo inutili. Come nelle grotte dell'Ete, gli apparvero le nostre vite. Svolazzo di anime, inquiete larve, sulle acque profonde della natura. In quanto ai suoi rapporti col partito, rimasero apparentemente intatti, ma anche quelli all'interno franavano. Gli piaceva nel partito quel tanto di sfatto e di colorato che la dottrina marxista aveva preso a contatto delle nostre regioni, ma tremava di vederlo terminare nella grande cupola di una nuova chiesa, moderna cattedrale, ove i napoletani non sarebbero più stati napoletani e non avrebbero adorato i loro vizi, ma le virtù. Si determinò una situazione assurda in cui il vecchio rivoluzionario, seduto al centro della reazione e chiamati a raccolta funzionari e ribelli, si mise a insultare tutti e quelli abbassavano la testa e piangevano. Comunisti o liberali, eravamo pur sempre comunisti e liberali di Napoli e lo amavamo troppo per non vedere nei suoi insulti altro che la furia e la malinconia del mare. Inoltre, tarati, deboli eravamo veramente tutti. Egli ci diceva i nostri vizi, uno per uno, le nostre piaghe. Quello si era suicidato, questo stava per farlo, quello rubava, questo era derubato. Egli era veramente come la nostra terra, la nostra madre comune, la città che avevamo voluto vincere, e ci ricordava le nostre debolezze e vergogne affinché mai più osassimo levarci contro di lei. Egli era questo ed era anche il figlio di lei, di questa terra, che così facendo rinunciava per sempre a se stesso. Sulla terza pagina dei giornali locali e poi della rivista Il Borghese, questi gridi divennero sempre più fitti e striduli. Nessuno fu risparmiato. Egli obbediva contemporaneamente a due esigenze: quella di distruggere le nostre anime e la sua, che aveva ferito le nostre. Egli attaccò vecchie e nuove religioni, la sua stessa famiglia, i giovani della voce, la radio come ministero e ciò che era contro la radio. Denunciò una pazzia o un'intelligenza generale, ma senza cordoglio, senza speranza di una resurrezione, anzi compiacendosi di ciò che appariva silenzio, monotonia, morte, fine della ragione. Il compagnone in questa passione si consumava. Egli l'affinava con lunghi e diligenti studi. Voltaire e Flaubert erano divenuti suoi idoli, cui chiedeva sempre nuovi mezzi per portare questa smania di offesa sul piano dell'arte. Ma accadde che la città, quegli ambienti antichi e moderni che gli aveva desiderato lacerare, si abituarono anche a questo fenomeno e i nemici che gli aveva sperato vennero meno. Subentrava invece una certa noia che a un tratto lo turbò più di quanto non avessero fatto prima le lacrime o l'ira. Avvertiva, in certi sorrisi indulgenti, affettuosi di persone che aveva inteso torturare, l'abitudine a tutto, l'antica impassibilità all'ingiuria e al dolore che formano l'essenza di Napoli e di conseguenza l'inutilità di ingiuriare o ferire. Provò la medesima paura di chi si è gettato contro un fantoccio che ballava appeso a un albero e improvvisamente scopre che non è un fantoccio, ma un giustiziato. E avverte qualcosa anche intorno al suo collo e si accorge che lui stesso pende dal ramo di un albero. Continuò a ridere, ma in un tono falso. In quel tempo, giocando a palla con alcuni amici nel cortile di casa, si era fatto male a un ginocchio. La cosa parve non avere importanza, ma ecco pochi mesi appresso parlarsi di sinovite. La gamba rimase più corta, appena quel tanto che serviva a squilibrare la giovane figura e a procurargli un'inquietudine profonda. Si manifestò anche un principio d'artrite che, in breve, cominciò in qualche modo a venire avanti nelle mani, mutandone lievemente il contorno. E Luigi a guardarsi le mani, e ora non pensava più ad altro. Anche con gli amici, fossero politici o letterati, non parlava d'altro, e chi era immerso in cose estranee alla salute ed educazione fisica l'odiava. Gli rinacque per il partito un genere di interesse superficiale che destò molte speranze in federazione, ma passò come era venuto. In quel periodo egli sembrava aver perduto ogni elegante controllo. Non esitò, per esempio, a buttarsi in una appassionata lettura dei Vangeli, e la sera quegli amici marxisti o liberali che venivano a visitarlo lo trovavano avvolto in un grande scialle da donna, con in viso il ribrezzo della febbre e due occhi incantati e febbrili di bambino, e dovevano ascoltare questo o quel brano del discorso della montagna e non so quanti versetti di San Paolo. Si afferrava a quelle antiche tavole e sperava salvezza. Una remota preoccupazione della rapidità della vita umana e dell'incalzare della fine, che alla base dell'irrigidimento di Napoli e le dà quella durezza, si era impadronita di lui e nel Vangelo voleva dimenticare le sue mani. Con lo stabilizzarsi però del fatto artritico, passarono quegli immediati terrori e pensieri e i sacri libri risalirono in una scansia. Non che fosse guarito, ma sia la primavera che già appariva sul mare, rendendolo teso e brillante, allungando i giorni e facendo più dolci le notti, sia la vergogna di quei tremori che in lui riportavano a galla il fanciullo e che adesso era disposto a riconoscere come esagerati, a un tratto il giovane parve mutato e, buttando da parte la sedia che sosteneva la sua gamba malata, cominciò, con l'aiuto di un bastone, a riprendere la via della radio, che era un altro capo di Napoli, in corso Umberto I. Quella leggera differenza tra una gamba e l'altra, alterando e rendendo più difficile il suo passo, costringeva il viso a contrazioni che egli si sforzava di nascondere, a quell'espressione disattenta e triste che non sarebbe andata più via. Giovinezza era passata con i suoi furori. Si riconosceva impiegato e in tutti gli italiani, e particolarmente nei napoletani, cercava crudelmente questa verità. I bei marxisti di un tempo, i Lecaldano, Cotronei e Barra, che tuttora, col fervore dei neofiti, frequentavano la buia casa, sperando conquistare quell'anima, lo annoiavano, e i liberali pure, e li ascoltava per ore pensando altro, guardandosi le mani o torcendosi un dito fino a farlo suonare. Non aveva più gioia di nulla, non aspettava più nulla, e probabilmente, nella sua sconcertante esistenza, non si sarebbe verificato per anni altro di nuovo, se proprio durante quella convalescenza l'astro di Domenico Rea non fosse salito rapidamente, come un rosso pallone, sull'orizzonte notturno di Napoli. Usciva «Gesù, fate luce», il romanzo di Rea con la prefazione di Flora, e a Napoli non si parlava d'altro. Quella parte di Luigi che non trovava più cosa a cui aggrapparsi, avendo tutto lacerato, e perciò moriva, fu rapita da quel tanto di furia e forza che era nelle pagine del Nocerino, da quel risorto mito della napoletanità che in quelle pagine rompeva così nudo e vivo. Nello stesso tempo, un silenzio profondo, un'angoscia senza forma né voce, prendevano alloggio nella sua mente. Non era invidia, ma un disprezzo che non gli era più concesso di esprimere, una malinconia furibonda e legata. Egli doveva amare Rea, doveva onorare Rea, doveva salutare in Rea la voce più legittima di Napoli. Il popolo e la natura che egli si era augurati gli venivano offerti inaspettatamente dal Rea in un piatto del 300 e rifiutargli era impossibile. Come già era accaduto durante il fascismo, quella sua disperata intelligenza e una vera facoltà critica, sollecitate da quell'irrompere dell'antichità, desideravano intervenire, prendere una posizione, opporsi, ma i comandi non obbedivano più. Bisognava dunque accettare Rea e insistere nel gioco che spostava i termini e concedeva al falso tutta l'autorità, destituendo la verità ad ogni diritto. Così si vide quel fragile rivoluzionario che aveva in sé la natura e l'odio contro la natura, voglio dire sia l'istinto che la critica, prodigarsi in un'ammirazione entusiasta e livida per il popolano, per Rea. Egli l'accolse in casa, imponendolo ad ogni altro suo amico, trascorrendo molti giorni in sua compagnia, in compagnia della moglie e del motoscooter di lui. E chi, vedendo la sua sofferenza, gli diceva Bada, Luigi, Rea non è così grande. Gli si levava contro col suo bastone minacciandolo. E si era nuovamente ammalato nel far questo. Era divenuto debole e gracile. In quanto al nocerino, sano come un limone e molto contento di come gli andava la vita, egli compativa Luigi perché era di cuore buono, ma lo disprezzava anche, e se lo accostava era proprio perché intuiva in lui quella facoltà critica il cui assenso gli premeva infinitamente. Ma non era l'antico Dio di cui aveva sentito parlare, quello che adesso lo accoglieva in casa e lo lodava, ma un napoletano come lui. E perciò le conversazioni, i colloqui fra quei due, non erano mai reali e onesti, rimanendone il Rea indispettito e insaziato e Luigi sempre più nevrotico e pieno di oscuri pensieri. Questo è il ricordo che avevo di Luigi. E adesso, come un'estranea, dopo aver tanto partecipato alla sua vita e infine averlo dimenticato, mi trovavo ancora davanti alla porta della sua casa. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.